Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. È un nuovo appuntamento questo con il cacciatore di libri, l'avete sentito anche nel titolo, Romanzi in valigia, un appuntamento estivo per ricordare un po' quali sono i romanzi che possiamo portare con noi quest'estate, un po' di consigli rispolverando alcuni dei libri di cui abbiamo parlato quest'anno. Partiamo subito con un romanzo divertente, è estate, vogliamo anche divertirci, vogliamo sorridere e secondo me uno degli scrittori più ironici che abbiamo ora in Italia è Marco Malvaldi, scrittore toscano. Lui è l'autore di quella serie di romanzi pubblicati per Sellerio dei cosiddetti vecchietti del barlume. Ci sono questi vecchietti che risolvono dei casi, dei gialli, mettiamola così. Beh, la buona notizia è che i vecchietti stanno per tornare. I vecchi del barlume di Marco Malvaldi torneranno fra settembre e ottobre con un nuovo romanzo, Telefono senza fili, pubblicato da Sellerio. Ma Malvaldi ha fatto anche i cosiddetti non vecchietti del barlume e uno di questi, l'ultimo che ha scritto, si intitola Argento vivo, sempre per Sellerio. Stile sempre ironico, un po' tranchant, le battute a volte si capiscono qualche secondo dopo. Allora, in questo romanzo appunto non ci sono i vecchietti, però all'inizio del libro c'è l'elenco dei personaggi. C'è Giacomo, uno scrittore in crisi a cui viene rubato il computer dove è salvato l'unica copia del suo ultimo romanzo. Poi c'è Leonardo, esperto informatico, però con un lavoro precario. Poi c'è un questore, c'è l'agente Corinna, brillante ma schiacciata dal suo superiore, e poi ci sono ovviamente i cattivi. Tutti vengono coinvolti dal furto di questo romanzo. E Argento vivo possiamo un po' definirlo una commedia degli equivoci, una definizione che è garbata molto a Malvaldi. Sentitelo. Io sono un drogato di commedie degli equivoci e nella mia testa il film più bello che sia mai stato realizzato è A qualcuno piace caldo. Ah beh, allora siamo proprio nel classico, il classicone degli equivoci, insomma. Però siamo sull'americano. Sì, siamo sull'americano, qui in mente avevo, o meglio, non avevo proprio io, poi lo spiegheremo, avevo un qualcosa più sull'inglese, più sui film di British. Guy Ritchie, per intenderci, i primi. Diciamolo subito però. Ti devi ringraziare per questa trama, per l'idea, insomma, di questa storia. Ma non è che devo ringraziare, parliamo di furto. Parliamo di furto. Ma come Valdi ha rubato la trama a mia moglie, Samantha, che un giorno si è palesata dicendomi: ma tu pensa, bellino, se ti rubassero il computer con dentro il tuo ultimo romanzo, che non hai salvato da nessuna parte, e questo qualcuno che te lo ritrova ti scrive, ti legge il romanzo, non gli piace, quindi comincia a tempestarti di telefonate anonime per suggerirti come potresti cambiarlo. E tu come ti sei sentito a questa idea? Terrorizzato dall'aver perso tutto il romanzo, insomma. La cosa potrebbe succedere perché, ecco, io fra le mie caratteristiche personali annovero il fatto di essere un cialtrone, quindi ho detto, vabbè, potrebbe succedere qualcosa di bellino, perché non ci scrivi qualcosa sopra? Mai suggerire qualcosa alle mogli. Lei si è messa lì, lo ha fatto e aveva scritto appunto quello che nella testa di Samantha era un soggetto cinematografico. Purtroppo il soggetto cinematografico è andato nelle mani del mio editore. E lì ti sei dovuto mettere a tavolino e scriverci intorno un romanzo, come dicevo prima, molto bello, molto divertente. Allora, dicevamo Giacomo e questo giocatore di golf, lo scrittore che appunto perde questo computer. Questo sarà un po', come dire, il filo conduttore di tutta questa storia. Un computer, una macchina che viene rubata diverse volte, nella quale poi finirà questo computer, e una serie di personaggi che girano intorno a questo scrittore. Per esempio, i cattivi. Allora, chi sono questi due cattivi più uno? Definiamoli così. Beh, questi due cattivi più uno sono persone anche loro vittime della crisi. C'è crisi per chi vende alcolici, c'è crisi per chi vende vestiti, c'è anche crisi per chi vende a dosi. Quindi questi due spacciatori si devono riciclare in qualche modo. E quindi si riciclano come ladri. Essendo ladri non troppo esperti, hanno bisogno di coinvolgere una terza persona tecnologicamente avanzata, e quindi per poter entrare in casa di Giacomo, per l'appunto, e rubare varie cose, fra cui il computer in questione. In realtà loro vogliono rubare diverse cose, sì. Non è che hanno l'obiettivo, no, no. Perché non sanno neanche bene chi sia, che sia uno scrittore, eccetera. Questo computer poi appunto finisce nelle mani di Leonardo, che appunto è, come dire, il nerd prestato ai delinquenti, ma è anche un grandissimo appassionato di romanzi. Finisce per leggersi questo romanzo e che ne pensa? Beh, che ne pensa? Innanzitutto riconosce che c'è qualcosa di valido nel romanzo, perché appunto lo legge, parte dalla fine e arriva in fondo. È una cosa che si dovrebbe sempre fare quando si tenta di cattivarsi l'attenzione di chi ti ascolta o chi ti legge, assicurarsi che chi legge arrivi in fondo. Rossini diceva che quando i suoi contemporanei francesi lo criticavano, chiamandoli il signor Chiassoni, il signor Crescendo, diceva che era vero, era colpa sua, lui faceva talmente tanto casino che alle sue opere non c'era nessuno che dormisse. E quindi Leonardo, è una strategia. Leonardo legge, però non lo convince, c'è qualcosa che non lo convince, riconosce l'autore del libro e trova il libro parecchio al di sotto della media, come d'altronde succede un po' da anni, perché questo scrittore comincia un po' a ripetersi. È uno scrittore che scrive un po' sempre lo stesso romanzo. Si è inventato una metafora sul golf e la vita. E piano piano l'ha asciugata, fino quasi appunto a rinsecchirla. E a questo punto si sente in dovere di dirglielo, anche perché altre prospettive non ne ha, visto che è stato appena licenziato. Anche lui non ha un lavoro, appunto, si è prestato così alla criminalità. Adesso non possiamo entrare nei dettagli, perché altrimenti, come dire, il lettore perde il gusto appunto di questa commedia degli equivoci. Ma come hai proceduto nella scrittura? Cioè, tu avevi appunto un soggetto che è stato scritto da Samantha, da tua moglie, però a un certo punto hai scoperto tu stesso delle cose, ti sei inventato qualcos'altro, ti sei messo a ridere da solo? La cosa capita spesso, il che testimonia del mio scarso equilibrio mentale. Quello che ho tentato di fare è stato di metterci i personaggi. Io non sono appunto a mio agio particolarmente con le trame, quello in cui sono a mio agio sono i personaggi, quindi ho tentato di mettere i personaggi giusti. Leonardo è stato abbastanza facile, ho preso un mio amico e ci ho aggiunto delle caratteristiche, una ventina di chili di peso innanzitutto, perché doveva essere chiaro che la persona in questione era bulimica da tutti i punti di vista. Però appunto Leonardo Chiezzi è vicino per molti versi al ritratto di un mio amico, a cui ho fregato anche il nome. Leonardo Chiezzi è un ritratto di Leonardo Chiezzi, che ho dovuto ingrassare un po', ho dovuto mettergli una moglie un pochino più fastidiosa. Ma l'amico ha ringraziato o si è arrabbiato? No, l'amico è contento. La moglie non lo so, non l'ho sentita, ma... Beh, insomma, essere all'interno di un romanzo di Malvaldi, posso prenotarmi per uno dei prossimi? Mi ci metti così, fai un cameo, Alessandra Tedesco di Radio 24, non so, dice una cretinata qualsiasi. Si può fare tranquillamente, l'ho già fatto per altri... per altre persone, non tutte hanno apprezzato, ci sono alcune persone nel dipartimento di chimica che dopo aver letto Il gioco delle tre carte non mi salutano più, non so perché, ma... Lo ricordiamo che tu sei chimico, cioè tu fai lo scrittore, però in realtà sei nato chimico. Sì, sono nato chimico e continuo a svilupparmi, nel senso non lavoro più all'università, non ci ho mai lavorato in realtà perché ero precario anch'io, avevo avuto un assegno di ricerca, un dottorato di ricerca, assegno di ricerca, contrattini a tempo, poi... un giorno io e la mia capa, cara vecchia Cinzia Chiappe, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto entrambi: cosa ci stai a fare qui? E quindi ti sei dato alla scrittura. Insomma, ci sono dei precedenti illustri di chimici che si sono dati alla scrittura. Sì, un po' Primo più, Levi, non un so, po' più uno... illustri di me. Sì, Primo Levi, Isaac Asimov, Sherwood Anderson, ce ne sono vari. Ho anche un epigono contemporaneo, Piersandro Pallavicini. È vero, che è chimico anche lui. È strutturato, è un bravo chimico inorganico che scrive dei libri notevoli. Quindi si vede che... È qualcosa che annusate nell'aria. Io l'ho sempre detto, nei laboratori annusate qualcosa e vi viene voglia di scrivere. E ti dico anche cos'è, se vuoi. Ecco, è la noia. La noia, la noia. Ecco, perfetto. Componente essenziale della creatività. C'è molto, come dire... un aspetto tecnico quasi anche in questo romanzo, perché c'è un romanzo nel romanzo, perché si leggono dei pezzettini di questo romanzo che è in questo computer che è stato rubato e parla di un matematico. Quelle sono le pagine che ho capito di meno. Ammetto che alcune cose non le ho capite perché facevo un pochino fatica. Uno dei personaggi anche molto divertenti è questa Corinna, questa poliziotta che prende proprio fischi per fiaschi, cioè pensa di essere sulla strada giusta, di scoprire i colpevoli, invece poverina non ha capito quasi niente, suo malgrado però. No, non è che non ha capito quasi niente, in realtà Corinna diciamo segue la pista giusta ma interpreta in modo sbagliato quello che le capita intorno. In realtà diciamo è una delle poche che, forse l'unica per l'unico personaggio che tenta di seguire le fila di quello che succede dall'inizio alla fine, quindi si impegna con sudore, con fatica, con sagacia, perché è una persona intelligente, non è supportata dalle circostanze, nella fattispecie dal suo capo, ed è un qualcosa che io vedo spesso capitare in molti ambiti lavorativi, cioè quello della donna che si impegna e che non viene considerata dal suo capo in quanto giovane, in quanto donna, in quanto rompiscatole, perché si può dire rompicoglioni, sì, meraviglioso, sì. Perché insomma, quando sei arrivato in una certa situazione di equilibrio, la persona sotto di te che si impegna, che tenta di fare meglio di te, che tenta di rimuovere in qualche modo lo status quo, è molesta, e quindi gli trovi tutte le caratteristiche che possiede questa persona, diventano automaticamente caratteristiche negative. Quindi anche il fatto di essere una donna, anche il fatto di essere molto alta, io ho fatto Corinna apposta molto alta perché si capisse che il suo capo, il questore, era in realtà una persona molto bassa, ma da un altro punto di vista, insomma, per far muovere questa persona giovane, con tanta voglia di fare, con una certa intelligenza, con non troppa esperienza, cosa che pagherà, ma che, diciamo, è secondo me una giovane estremamente promettente. Senti, il tuo prossimo romanzo è ben custodito e salvato su chiavette, mille salvataggi? Dunque, come direbbe Wolfgang Amadeus Mozart, è tutta qui, esattamente. Chi ci ascolta non può vedere, ma sto indicando quello spazio vuoto fra le orecchie che uso per metterci il peggio di quello che mi viene in mente. E torneranno quindi i vecchietti del Barlume? Assolutamente sì, perché innanzitutto perché li ami. Perché li amo, mio malgrado li amo, sono divertentissimi da scrivere, ecco, se ho riso scrivendo Argento Vivo, quando scrivo i vecchietti del Barlume a volte veramente mi spatascio da solo, anche perché non sono tantissime le cose che mi invento, molte delle cose che faccio dire ai vecchietti del Barlume le ho sentite davvero o avrei potuto sentirle, perché alcuni dei personaggi che ho conosciuto, messi nella situazione medesima in cui faccio agire i miei personaggi, avrebbero detto esattamente quella cosa. Si tratta di prolungare. Quindi sì, vecchietti sono divertenti per me da scrivere, sono divertenti credo per gli altri da leggere. Alcune persone mi hanno, appunto, dopo aver letto Argento Vivo, mi hanno detto sì, bellino, bellino, ora però per favore i vecchietti, perché non se ne può più. E questo era Marco Malvaldi con Argento Vivo. Vi ricordo invece che l'appuntamento con I vecchietti del Barlume, quindi il nuovo romanzo Telefono senza fili, sempre pubblicato da Sellerio, è fra settembre e ottobre, quindi manca veramente poco. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. Da mettere in valigia per quest'estate, secondo me, ci può essere anche questo bel romanzo di Donatella Di Pietrantonio, si intitola Bella mia, pubblicato da Elliot, un piccolo editore di grande qualità, devo dire. È un romanzo doloroso, sicuramente, ma anche pieno di speranza. È ambientato all'Aquila, subito dopo il terremoto del 2009. La protagonista è una donna, Caterina, che perde durante il terremoto sua sorella gemella e deve a quel punto prendersi cura del nipote adolescente, con tutta una serie di contrasti interiori non da poco e ben narrati dalla Di Pietrantonio. Quando ho letto questo libro ho avuto l'impressione che la protagonista avesse, diciamo, 50-60 anni, invece poi si scopre che in realtà è molto più giovane, però è stata proprio una volontà della scrittrice di far sentire su di lei il peso di anni che non aveva. Sentitela. Voleva proprio essere così, schiacciata dal peso del lutto di questa gemella che lei ha sempre idealizzato e un po' vissuta alla sua ombra. E schiacciata appunto da questo lutto, lei ha rinunciato a molte parti di sé, soprattutto alla femminilità. Addirittura racconta la voce narrante che dopo la morte della sorella lei ha perso le mestruazioni. Quindi sembra in effetti in tutta la prima parte del romanzo che lei sia una donna un po' attempata. Solo quando la seguiamo nel suo percorso di elaborazione del lutto, della perdita, e quindi quando lei viene anche suo malgrado richiamata alla vita, a vivere ad esempio con il nipote l'esperienza della maternità a cui aveva rinunciato non sentendosene capace, noi scopriamo che in realtà è una donna ancora giovane, ancora fertile, soprattutto psicologicamente. Il lutto è quello appunto della sorella gemella che muore durante il terremoto del 2009 e lei insieme a sua madre doveva prendersi cura del nipote, insomma del figlio della sorella, che è un ragazzo, un adolescente. Lei lo guarda a volte con sospetto, come se fosse una creatura aliena, ha quasi paura ad avvicinarsi a lui, però sente che deve farlo perché è la zia, perché si deve prendere cura di lui. Che tipo di rapporto c'è fra loro due? In effetti lei lo vive soprattutto all'inizio, quando il ragazzo va a vivere con lei e con la madre anziana, quindi con la nonna, come un essere estraneo, perché lei non lo ha scelto. A un certo punto dice che non riesce ad amarlo tutto questo ragazzo, anche perché si presenta a lei con la fisicità rifiutante tipica degli adolescenti, quindi questo ragazzo mostra alla zia sempre le spalle, gli spigoli del suo corpo, i gomiti, è taciturno, scontroso, brufoloso, ha degli scatti di rabbia, ma manifesta anche una sporadica tenerezza verso la nonna e anche verso la zia stessa. Quindi il vissuto dell'io narrante verso il nipote è necessariamente ambivalente. Lei è chiamata a farsi madre di questo adolescente che già attraversa una fase critica della vita ed è per di più devastato dal lutto della madre. E quindi Caterina, la protagonista, ha dei vissuti di inadeguatezza, proprio perché avendo già rifiutato per sé il ruolo materno, si ritrova ora chiamata da un caso crudele a farsi madre, e non solo, ma di un adolescente come Marco. Tutto il libro sembra essere un po' un percorso di ricostruzione dalle macerie, proprio in questo caso il simbolismo è evidente, insomma, le macerie del terremoto, ma in questo caso sono macerie emotive, personali di Caterina, della protagonista, dei personaggi che le girano anche attorno. E poi è appunto un processo così di ricostruzione, perché a un certo punto Caterina proverà a vivere anche una storia d'amore, quindi c'è in questo romanzo molto doloroso, come dire, all'improvviso un raggio di luce che comunque simboleggia la possibilità, c'è una possibilità, c'è un'altra possibilità per Caterina. Certo, è una possibilità che lascio aperta, perché anche questo uomo che interviene improvvisamente nella sua vita è un tipo un po' strano, un po' ondivago, gli sembra di starsi legando troppo a lei e quindi fugge, però le manda un messaggio dove dice che tornerà e le chiede di aspettarlo, quindi noi non sappiamo come sarà il futuro. Quello che è certo è che c'è questo percorso, soprattutto nella protagonista, di elaborazione, di trasformazione del dolore in qualcosa di funzionale alla vita. Quindi noi lasciamo Caterina in questo finale sì aperto, dove però quello che è certo è un suo nuovo modo di rendersi disponibile alla vita e agli altri. Il dolore di Caterina è un dolore intimo, personale, ma anche un dolore collettivo, perché il terremoto ha interessato tutte le persone che la circondano. Che differenza c'è per questo personaggio e il modo in cui tu l'hai vissuto, perché l'hai costruito tu questo personaggio, tu sei abruzzese, quindi hai visto anche il terremoto, le conseguenze. Che differenza c'è fra cercare di superare un lutto estremamente personale e un lutto invece collettivo, che dovunque ti guardi, la realtà che ti circonda te lo ricorda sempre? Un lutto collettivo che sta intorno, concentrico al dolore individuale, è un moltiplicatore, è un potente moltiplicatore della sofferenza, perché in ogni momento possiamo vedere la nostra personale perdita riflessa nelle N perdite degli altri che ci sono intorno, quindi è un continuo ricordo, lo specchio degli altri è per noi un continuo ricordo del dolore che abbiamo dentro, è un continuo rimandarsi, è come un'eco continua tra il proprio e l'altrui, però è anche importante nella elaborazione del lutto questa dimensione collettiva, in quanto c'è una possibilità di sollevare lo sguardo dal proprio privato dolore e incontrare, condividere, quindi in qualche modo dividere con gli altri. Questo romanzo, Bella mia, mi è piaciuto anche perché restituisce una visione intima, personale, ad un fatto di cronaca che tutti insomma l'abbiamo conosciuto, il terremoto dell'Aquila, si è parlato purtroppo le vittime, poi i problemi della ricostruzione che ancora non c'è e tante altre cose, però qui si avverte nel piccolo della persona la tragedia grande di quello che è stato e quindi, non so, restituisce umanità in qualche modo a un fatto di cronaca. Tu perché hai voluto fare un romanzo che avesse come altro protagonista, diciamo, il terremoto, perché comunque è sempre un protagonista sullo sfondo? Ma intanto perché, essendo abruzzese, l'ho vissuto, se non proprio sul campo, da molto vicino. E l'aspetto che tuttora all'Aquila, per me è una ferita profonda, è una città che amo molto ed è una ferita proprio nell'identità collettiva di una intera comunità. E poi un po' anche per quello che dicevo prima, mi interessava vedere in una situazione estrema, quale può essere una tragedia collettiva, quella che è la risposta umana, come le persone riescono a modificare le geometrie relazionali, affettive e a ricostruirle in un altro modo, le relazioni. Tra l'altro adesso pensavo che la protagonista Caterina, come lavoro lei dipingeva delle ceramiche, no? Che inevitabilmente nel terremoto si distruggono, è la prima cosa forse che si distrugge. È stata una scelta casuale o l'hai pensata, come dire, apposta? Ma mi è venuta naturale, spontanea, però poi ho visto che era molto funzionale per quello che volevo dire, quindi queste ceramiche che si rompono, Caterina a un certo punto dice tutto quello che ho fatto è perduto, ma poi lei riprende e non solo riprende il suo lavoro precedente di decoratrice di ceramica, ma addirittura al culmine di questo suo percorso interiore di ricostruzione comincia a modellare, quindi c'è una nuova creatività che viene fuori. E la creatività è sempre segno di rinascita, appunto di apertura alla vita. Questo è un romanzo, pura fiction, insomma una storia inventata, non vuole essere un romanzo di denuncia sociale, del terremoto, della ricostruzione, però leggendolo si vede come quelle persone lì che hanno vissuto il terremoto ancora oggi vivono nelle case prefabbricate, insomma descrivi molto bene il modo in cui vivono quotidianamente, che non è un modo dignitoso, insomma a distanza di tanti anni. Quanto hai voluto effettivamente mettere in evidenza questo aspetto? Appunto, ho detto, non è un romanzo di denuncia, però io ho pensato, è devastante questo modo di vivere. È un aspetto importante, anche se, come dici giustamente, non voleva il mio essere un romanzo di denuncia, ma non ho potuto fare a meno di raccontare questa periferia disgregata, frammentata, in queste 19 new town artificiali, dove si è perso proprio il tessuto delle relazioni vicinali che fanno sì che sia piacevole vivere in una piccola città di provincia come L'Aquila, dove scendi sotto casa e trovi il tuo giornalaio, il tuo caffè che ha sempre lo stesso sapore. Tutto questo si è disperso, si è disgregato e in qualche modo è diventato proprio così spontaneamente tra le mie mani anche un romanzo politico. Infatti Caterina fa un gesto fortemente politico quando, arrivando in questo appartamento del progetto Case e trovando in frigorifero lo spumante del governo, lei lo stappa piano piano per non fare rumore di festa, perché non c'è nulla da festeggiare, e lo svuota dentro il lavandino. E questa era Donatella di Pietrantonio con Bella mia, romanzo pubblicato da Elliot. È tutto per l'appuntamento con il cacciatore di libri, romanzi in valigia, che lo ricordiamo è ogni sabato alle 14. Restano comunque anche per l'estate i consueti appuntamenti con il cacciatore di libri, e cioè il sabato alle 6.45 per insomma chi si sveglia presto, e sempre il sabato alle 22, con replica poi la domenica alle 14. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.